posso darti di più. Saprei stupirti e fare magie di più. Con te volerò. Tell me baby, che il tuo cuore è tutto per me. Saprò brillare, essere una stella per te. Tell me baby, che il tuo amore è fatto per me. Io sono l'onda che riprende il mare con te. Non ho paura di nuovi orizzonti e voglio stare sempre con te. Diventa il mio re. Ti porto in alto con me. Che emozione. Sei la forte tentazione tu che scorri dentro di me. Saprei stupirti con mille sorprese, sai chi voglio sei tu. Tell me baby, che il tuo cuore è tutto per me. Saprò brillare, essere una stella per te. Tell me baby, che il tuo amore è fatto per me. Io sono forte e sfido anche la sorte per te. Tell me baby. Tell me baby. Tu non cambiare. Tu sei fantasia. Tu sei musica che scorre dentro me. Saprei stupirti con mille sorprese, sai chi voglio sei tu. Tell me baby, che il tuo cuore è tutto per me. Saprò brillare, essere una stella per te. Tell me baby, che il tuo amore è fatto per me. Io sono forte e sfido anche la sorte per te. Non ho paura di realizzare il grande sogno che è dentro me. Diventa il mio.